ancora anche in questa quarta parte, ovviamente è così, cioè, lo chiamavano Trinità a tenerci compagnia, a intercalare la musica di tanto in tanto, musica, parole estratte da libri, le prime parole, gli incipit, e cinema, il cinema di Lo chiamavano Trinità, e questa è eclettica sostanzialmente, in un sunto veramente molto stringato, se dovete spiegare che cos'è questa trasmissione in onda da 13 stagioni sulle frequenze di Rock FM. Abbiamo aperto quest'oggi con una band che denunciava abbastanza facilmente le sue origini geografiche. Se avete prestato attenzione a questa band, sono sicuro che molti fra voi magari non li avranno riconosciuti, però avranno pensato: secondo me questi sono irlandesi. Avrebbero pensato giusto se l'avessero fatto. È il nuovissimo dei The Frames, che ritornano con un album per ora pubblicato solo in Irlanda in questo mese di novembre, poi in tutto il mondo a inizio 2007. Noi ci siamo ascoltati da The Coast il brano numero 3, People Get Ready. Sapete, Eclettica è un po' snob. Così, non le piace seguire il flusso, non le piace seguire le indicazioni, nel senso che la casa discografica indica che ci sarà un singolo, Falling Slowly, la traccia numero 2, che non è male, però a Eclettica piaceva molto di più People Get Ready. Sapete, Eclettica comanda in questi orari. E quindi ci siamo ascoltati People Get Ready. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, giulio@radiorockfm.com, myspace.com/eclettica, queste sono le coordinate internet per arrivare dalle parti di Eclettica. Nel mese di marzo, il 26 se non ricordo male, di quest'anno morì Nicky Sadden, artista di cui fra l'altro avevamo avuto occasione di parlare per delle prove che l'avevano visto partecipe. C'era anche un suo disco pronto, The Truth Doesn't Matter, però purtroppo lui è scomparso, e quindi questo è diventato un disco che ci ascoltiamo in maniera postuma. The Truth Doesn't Matter è uscito all'inizio di novembre per Sleeping Star in tutta Europa, e per la Secretly Canadian invece in USA e in Inghilterra. Noi ci ascoltiamo la traccia che lo apre, 7 Miles. We'll be right back. È stato calcolato che il peso delle formiche esistenti sulla Terra è pari a 20 milioni di volte quello di tutti i vertebrati. Così lo scultore ottocentesco Amos Pelicorti, detto il Mirmidone, rispondeva a coloro che gli chiedevano perché componesse le sue opere in mollica di pane. Da quando aveva letto la notizia su un giornale era rimasto a tal punto folgorato da lasciare le predilette sculture in marmo per il candore alternativo della farina. I suoi capolavori venivano sfornati caldi e dati in pasto alle formiche. Questo era l'incipit della Compagnia dei Celestini di Stefano Benni. I would have had my chance to tell her, don't let them bastards get the best of you. I bet you got the strength to pull you through. If I had only had her number, I would have called her up, talk to her. She could have told me how she's holding up. We would have talked about the days we had not long ago, and we were all so young, and old. We did not know what to do or what to become. But look at us, girl, yeah, we're still young now. I know now. We know now. We know now. Benvenuto, fratello. Grazie. Qual buon vento? Beh, veramente non è stato il vento. Passavo di qui e ho pensato di venirvi a salutare prima di partire. Torno a casa. Dumb I am in a weak one too. A simpleton I will warn loose. Once all the filthy flies I free. And there they go, nothing I can do. Dumb I the deal I got. È la seconda volta che questa settimana passiamo dalle parti della Fat Cat Records e un'altra delle sue ultime uscite, quella di Nina Anastasia, il nome che ben conoscono gli ascoltatori di Eclettica, un album dal titolo On Living, dal quale ci siamo ascoltati questa filastrocca Dumb I Am. In precedenza invece della Norvegia Erlend Ropstad con The Magnetic Tapes, nel senso del titolo dell'album, e invece Winona and I, nel senso del titolo del brano. Abbiamo parlato molto ultimamente di Ramona Cordova, dati anche i biglietti che sono ancora in palio per le due date di Ravenna e di Bologna, o per le altre date per cui erano stati messi in palio. Mi raccomando le recensioni se li vincete, però è veramente tanto tempo, direi almeno 3 o 4 settimane che non passa all'interno delle scelte musicali di Eclettica, e quindi eccolo qua che torna, Ramona Cordova con Giver's Reply. We'll be right back. anni passano. Passano e fenomeni che sembrerebbero non troppo distanti nel tempo sono già oggetto di revival, quindi ci fanno capire come invece il tempo sia a tutti gli effetti passato. Dovete pensare che a Londra da circa 3 anni si tengono delle serate di nome Club AC30 che sono dedicate al showgazing. Non so se qualcuno fra voi si ricorda, penso di sì, penso sicuramente di sì, del movimento showgazing, come era stato in questo modo denominato dal NME nei tardi anni 80. Tipicamente guitar bands dal suono rumoroso, per farvi qualche nome: Spaceman 3, Galaxy 500, Ride, Slow Dive, My Bloody Valentine, e mettiamoci dentro anche Jesus and Mary Chain, dai. C'è già stata una compilation nel settembre del 2005 denominata Club AC30, dedicata appunto al recupero di quei suoni, ed ora ne esce un'altra in cui ci sono diverse cover di gruppi di quegli anni. Noi ci siamo ascoltati un duo di Nashville, pensate un po', di nome Hammock, che rifaceva una canzone dei Catherine Wheel dal titolo Black Metallic. L'avevate riconosciuta? Giulio Caperdoni vi saluta. È arrivata la chiusura di Eclettica anche per quanto riguarda questa settimana, e quindi vi rimando alla prossima.